Buonasera agli ascoltatori di Radio Alma, rieccoci in onda con una nuova puntata di Noi Volevamo Savoir, il vostro appuntamento del lunedì sera, tutti i lunedì dalle 20 alle 21 sulle frequenze di Radio Alma 101.9 FM. E allora, questa sera con me il regista speciale, saluteremo più tardi, e con me questa sera in studio un grande ritorno, ormai un continuo ritorno a Radio Alma, per noi Gino, il nostro ospite preferito. Ciao Gino, benvenuto e bentornato. Buonasera a tutti. E allora scopriremo poi di cosa ci parlerai stasera, dopo aver praticamente già rivelato la tua vita, l'intera tua vita agli ascoltatori di Radio Alma. Ci sono ancora però parti misteriose, le scopriremo stasera. Assolutamente. Beh. Però intanto stasera, un po' per depistare i nostri ascoltatori, ci hai portato un ospite, una nostra amica. Benvenuta a Radio Alma, a Maria, una ragazza polacca qui a Bruxelles. Ciao Maria, benvenuta. Ciao, ciao, ciao a tutti. E allora, quindi questa sera il tema della serata, tema di Noi Volevamo Savoir, è la vita di Maria, scopriamo i dettagli. No, la verità è che parleremo quindi della Polonia, del suo paese, poi dei vari giri per l'Europa che l'hanno portata prima a Bruxelles, poi a Parma e poi, come vediamo, di nuovo qui a Bruxelles. Di nuovo qui a Bruxelles, con piacere questo ritorno a Bruxelles. Qual è stato il motivo di questo ritorno qui? Il motivo è praticamente lavoro, però con piacere, sì, con piacere. Com'è il tuo rapporto con Bruxelles e con i belgi, Maria, com'è? Beh, ci sono tante, come una comunità internazionale, conosco più una comunità italiana, spagnola, anche sono tanti polacchi, però i belgi forse due, tre che conosco. Senti, ci hai detto, eravamo fuori onda, quindi non è la tua prima volta a Bruxelles, sei stata in passato a Bruxelles, certo. E sei poi andata via alla ricerca del sole italiano, del sì. Sole e non soltanto della cultura italiana in senso lato, per poi ritornare qui a Bruxelles. Quando sei arrivata a Bruxelles la prima volta, com'è l'impatto, com'è stato? Voglio dire, cosa sapevi tu di Bruxelles, del Belgio, insomma, quando ti ho detto ok Maria, adesso per lavoro vai a Bruxelles, sì, punto sì, interrogativo, sì. Cosa era mai? Ma quando sei a scuola, come primaria, sì, che fai la geografia, conosci i grandi paesi come Germania, Francia, Spagna, sai, Italia, però dopo ti mandano un contratto di Belgio e dopo non sai dove è Belgio. Quindi tanto per cominciare abbiamo dovuto ricominciare a prendere le cartine dell'Europa per sapere sì. Dove dovevi andare per prenotare il volo. E dopo ci sono tante persone che fanno la vita qui, no? Che è tutta la comunità europea che rimani qui per 20 anni. E allora la tua scelta appunto di venire qui nella capitale delle istituzioni europee, nella capitale dell'Europa, era dovuta ai tuoi studi? Sì, che ho studiato anche in relazione internazionale, tutti gli studi europei, era proprio tempo per studiare questo, perché Polonia era prima di entrare nell'Unione Europea, così era anche buona scelta degli studi, perché ho trovato lavoro velocemente dopo. Senti, quindi Bruxelles e il Belgio ancora tutto da scoprire in questo periodo, tra la prima e la seconda volta che sei stata qui a Bruxelles, sei riuscita comunque a carpire qualcosa della cultura belga? Sì, sì, però che mi piace l'architettura di Bruxelles. L'architettura, sì. Anche adesso ho scoperto qualche cosa culturale, che ci sono tante cose, no? Come festivali, musica. Come la Casa della Cultura di Saint-Gilles. Sì. Che ci ospita da diverso tempo. Gino, concordi, Bruxelles, come dire, una scoperta lenta, dolce e lenta? Sì, più o meno. Anche se non sono proprio d'accordo sulla questione dell'architettura, non la trovo particolarmente attraente. Ma Gino il contestatore, dai. già all'attacco. Fermiamoci allora qua subito, prima che il polemico Gino vada avanti. Mettiamo un po' di musica questa sera e poi ritorniamo in studio a parlare a Noi Volevamo Savoir della Polonia con la nostra ospite Maria. Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti. Ospite Maria, una ragazza polacca, sta parlando del suo paese. Per la verità, fino adesso abbiamo parlato appunto del suo arrivo, del duplice arrivo a Bruxelles, una prima volta, poi è fuggita verso l'Italia e poi è ritornata un'altra volta. E forse in fondo ha in programma di fare un'altra scappata nel nostro paese. Ma questo, il tuo rapporto con l'Italia, lo vedremo più avanti nella trasmissione. Intanto parliamo un po' del tuo paese. È da tempo che non abbiamo già avuto qualche ospite polacco qui a Noi Volevamo Savoir, però adesso è veramente tanto tanto tempo. E allora, una domanda, tanto per cominciare, una obbligatoria qui a Bruxelles: la Polonia dopo l'ingresso nell'Unione Europea, insomma, come ha vissuto secondo te il tuo paese l'ingresso nell'Unione Europea? I tuoi amici in Polonia sanno tu cosa fai qua, cos'è l'Unione Europea, cosa fa la Commissione, qual è il rapporto insomma con l'Unione, con l'Europa in generale? Ma penso che per tutti, no? Anche per in Italia, se voi siete dall'inizio della Unione Europea, siete nella Unione Europea, però anche persone normali nei villaggi, no? Che non sanno la differenza tra il Parlamento Europeo, la Commissione Europea, non lo so, il Consiglio Europeo, così è difficile, no? Questo sicuramente. Però invece la data, insomma, l'ingresso in Europea, a questo momento è stato vissuto con partecipazione, secondo te, dal popolo polacco? Neanche sì, però quando vado qualche volta di vecchi paesi europei che mi chiedono e voi in Polonia siete già in Europa, e mi chiedono un passaporto qualche volta. Quanto vale uno slotti? Vediamo. Ma sì, che non sono tante persone, anche vecchi paesi europei, che conoscono che Polonia è già entrata, che 4 anni fa, no? È entrata nell'Unione Europea, che adesso è anche Bulgaria, che non conosce, non dovremmo avere la visa per andare in Bulgaria o Romania. No, è vero, questo è vero, c'è molta poca informazione in tutta Europa. Però è vero che abbiamo. Però è complicato anche per capire questo, no? È complicato. Se non lavori là, sulle istituzioni. Ma è vera la storia degli idraulici polacchi. Tutti andati, no? No, se è vero, proprio vero che i miei genitori vogliono fare. Sono idraulici? Sì, tutti e due. No, raccontiamo, qual è il mito dell'idraulico polacco? No, che vogliono cambiare qualcosa nella casa e non troviamo più come. Bisogna cercare gli idraulici ucraini. Non solo idraulici, però perché sono venuti tutti quanti, sono tutti emigrati. Sono tutti andati. Dall'Ucraina, sì. No? Come dall'Ucraina. Che sono adesso, giusto. Vengono dall'Ucraina. Esatto. Vabbè, noi abbiamo un rapporto buono. Però giocando su questo fatto dell'idraulico, la Polonia neanche un po' approfittato per fare marketing per il proprio paese. Io ho in ufficio un poster molto molto bello di un idraulico polacco bellissimo, e con una sorta di slogan: io resto qua, venite a trovare voi me. Questo è molto molto carino. Modo anche per gli uomini era un poster con una donna polacca dentista? No, la nurse, per dire, come infermiera? Infermiera polacca, sì. Che diceva venite a trovare qua. Questo modo molto carino, ironico, di giocare un po' su alcune leggende metropolitane di questi mitici idraulici polacchi. Beh, un check medical in più non fa mai male, no? Gino, ma sei mai stato in Polonia, Gino? Mai, no. Purtroppo mai. Ma vedi, non è lontano, è proprio. Sei stato 10 volte in Germania, hai fatto studi in Germania. Ma ci passo per di lì, no? In Polonia devo andare. Quanti anni hai? Abbastanza. Sì. No? Sento qua, vedi, un po' di acrimonia. Ti sta rinfacciando la questione dell'architettura belga, secondo me, è evidente. Come tu l'hai attaccata sull'architettura belga, ecco, adesso Maria esce fuori con l'orgoglio nazionale. Perché Gino non è mai stato in Polonia? Esatto. Perché tu non l'hai mai invitata? Ma sì, invito tutti, perché però è proprio il nostro paese è bello, però è tanto agricoltura che è bello, è il paesaggio. Il paesaggio, no, sì. Però tutti non è uffici, edifici, no? Edifici, certo, sono distrutte durante le guerre. Per quello che ti piace l'architettura belga. Ma no, non sono belga, però in Italia avete ogni 30 chilometri un castello, una cosa, qualcosa bella. Bravissima. Sì, c'è anche sole in Polonia, che piove sempre. Non anche piove, in Polonia piove sempre. Piove tanto, no? Sì. Che piove, fa freddo, un po' grigio, così non si vede, che anche quando c'è architettura, qualcosa bella, senza sole non è bello. Però allora, noi abbiamo detto tutto questo adesso, allora, diciamo però cosa il bello della Polonia, cominciando mai dal parlare un pochettino della tua città, della città di Poznań. Poznań. Dov'è? Poznań. Poznań. Non pronunciare. Poznań. Oggi siamo tutti a scuola di polacco questa che sera. Che in sloveno vuol dire conosco, Poznań. Poznań. Ah, sì. Dov'è questa città, Maria? La città è vicino alla frontiera con Germania. E tra Germania e Varsovia, proprio si va più avanti e arrivi a Mosca. È come sì, Berlino, Mosca, dopo è Poznań, è Varsovia, come centrale. Non è in montagna, però Polonia è bella perché abbiamo anche il mare, che non tutti sanno, che noi anche abbiamo mare, Baltico, sì, e dopo abbiamo le montagne. Gdansk, no? Lo sappiamo. Sì, sì, sì. E dopo abbiamo le montagne Carpazze. Carpazze. No. Il Varsavia e Cracovia, che sono forse vero le due città più famose della Polonia, le più visitate anche dai turisti. Tanto che sono sempre messe anche nei test EPSO per scegliere la capitale della Polonia. Ma si dice che la Varsovia è come capitale politico, dopo la Cracovia culturale, e Poznań è vicino di Germania, che siamo tutti strutturati, no, no, che tutti risparmiano, così è come capitale finanziaria. Ah, sì. Tipo una Frankfurt. Sì, che abbiamo una messa, una fiera, sì, una fiera. Ma anche la messa, perché sì, è vicino. Sì. Senti, Varsavia e Cracovia come sono? Te le conosci? Cioè, abbiamo noi che distanze, non siamo così piccolo paese come Slovenia o Slovacchia, no? Che si viaggia solo in capitale quando hai bisogno di una visa per andare, non lo so, in India. E così conosco Varsovia sempre perché ho studiato a Poznań, avevo tutta la mia vita a Poznań, dopo sono così, non conosco proprio che la rittura non è. È un classico, anche noi certe volte conosciamo più spesso e meglio l'estero che invece le nostre città, i nostri tesori. Va bene, Maria, fermiamoci un attimo qui, io metterei un altro po' di musica e poi ritorniamo in studio, continuiamo il racconto della Polonia e della vita di Maria questa sera. Sì. Da Taipana, no? Tappabuchi di Taipana. Allora, torniamo a noi, stavamo parlando della Polonia e in particolare Gino mi suggeriva, eravamo fuori onda, la cultura culinaria polacca ha una grande fama qui presso i nostri amici brussellesi. Tu sai cucinare la cucina polacca? Che vivo qui da sola, così non cucino mai, che sì, ce l'hai una famiglia grande, sì. Anche in Italia, che sei da sola, facci solo pasta, no? Non cucini niente. E sovente scotta. Però semplice, qualcosa semplice. E tutte le cose polacche sono troppo difficili, che sono complicate, ci vuole 4 ore per fare bigos, che conoscete come bigos. Choucroute e piroghi, anche sì, le anche piroghi, sì. Cosa dopo? Sono già la collina in bocca. Devi aspettare di andare a casa di Maria in Polonia, a Poznań, per provarla, abbiamo capito. Ti invito là e vado così con la choucroute, sì. Sì, ma dopo come ma è troppo difficile spiegare in italiano. Diciamo ai nostri ascoltatori, ci abbiamo provato, volevamo darvi una ricetta, non ci siamo riusciti, andate a Poznań a casa di Maria per scoprirla. Sì. No, domani sul podcast Radio Alma metteremo la ricetta, sì. Proveremo a mettere la ricetta più presto. Ma qui potete comprare anche cose polacche, che ci sono tantissime, un montone. Tipo pivo. Sì, neanche pivo, però ci sono negozi polacchi dove puoi comprare tutto. Tutto, non sei tutto. Mai stato in Polonia, Gino, però la cucina polacca sai tutto e tutti è i nomi. È venuta no, qui la cucina pivo, polacca. La pivo piuttosto la bevanda, per quello la conosco. Ecco. Non è difficile da preparare. No, ma cioè cos'è, la vodka polacca? No, è la birra. Però anche la vodka, no? Anche la vodka, sì. Zubrówka, sì, sì, la conosci. Per forza. Sì, però ci sono ristoranti polacchi qui. Però anche tanti negozi dove puoi comprare gli ingredienti e dopo fare le cose, no? Senti, tipo le patate. Sì. Quindi devo immaginare che dopo un anno trascorso a Parma, allora tu sia diventata, come dire, dedita alla cucina italiana. Sono più italiana che italiani. Diciamo, era lì che volevamo arrivare. E io sono più polacco che polacchi. per tortuose vie volevamo arrivare a farti dire questo, che sì, in realtà hai abbandonato la cucina polacca per sposare la cucina italiana. Che mi porto olio di olive, mi porto parmigiano, mi porto prosciutto di Parma, tutto, tutto. Non far pubblicità, c'è anche il prosciutto di San Daniele. Ah, vabbè, e porto tutto. E più appunto, quindi Maria, qui possiamo, tu hai vissuto a Parma all'agenzia alimentare. Sì, per Parma, la sicurezza, per la sicurezza alimentare. Agenzia europea per la sicurezza. Quindi con la scusa di controllare, controlla di qua, controlla di là, hai vissuto in realtà. Ha messo su 5 kg a furia di controllare. Nel tempio della cucina emiliana, perlomeno, insomma. Ah, quindi... sì, quando vanno, perché la torta fritta, non so se conoscete, torta fritta è sì. Una cosa che si gonfia, come... Sì, si mangia col prosciutto. Beh, puoi mettere prosciutto. Dentro, sì, sì, tipo una piadinona gonfiata, sì. Eccezionale. No, ma è buonissimo, tutte. E sai farla? No. Non è difficile. No, però... quella invece di andare a casa di Gino, no. No, da me viene a mangiare solo polenta e fricco, come i veri. Prima di farti un po' di ginnastica, un bel piatto di polenta e fricco ti mette le energie. No, torniamo un attimo, parliamo dell'Italia stasera ovviamente, però torniamo un attimo, concludiamo, parliamo ancora un po' della Polonia. Noi eravamo alla ricerca di... tradizioni, cultura, eccetera, eccetera, aneddoti sulla cultura polacca. Gino, tu almeno hai conosciuto qualche polacco? Io ho avuto una lunga storia con una polacca, perché la mia prima macchina era una 126 bis prodotta in Polonia. Wow! La fine del mondo. C'era, ecco qual era la sorpresa, ecco qual era. Perché sapeva troppo della Polonia senza esserci mai stato. E quindi il link c'era, Era la macchina. Sì. Ormai tutte le macchine, penso, di Fiat sono prodotte nello stabilimenti... Non so. Ma sono 126. Sì? Sì, dopo 500 abbiamo fatto tanto, 500. Le piccoline? Sì. Ah. Vedi? E a parte questo rapporto con la macchina, eccetera, eccetera, c'è nessun altro... C'ho un po' di amici che sono venuti a trovarmi in Italia, polacchi, ma per adesso non hanno ricambiato, quindi devo aspettare ancora un po' di tempo. Senti, per me comunque, io credo ci sia un certo feeling tra italiani e polacchi, un po' forse dovuto anche... a Papa Wojtyla, il fatto che c'è cioè un grande... Noi ci siamo conosciuti in chiesa, io e Maria. Sì. No, però ci sono tantissimi polacchi a Roma, tantissimi italiani che adesso vanno ai posti, ai luoghi dove Papa Wojtyla è vissuto. Credo che questa abbia unito, in realtà abbia unito molto i nostri paesi, no? Non credi? Sì, però anche la lingua, quando io sono andata a Parma, a vivere a Parma, conoscevo zero, proprio buongiorno e grazie. E dopo i suoni sono lo stessi, che facciamo... Che non tipo è lo... cesch, cesch, è uguale, dopo voi, quando infatti, ci sono specialmente cinque consonanti attaccate, provo un piacere. Ma mi sembra che gli italiani possono anche parlare bene polacco, perché sì, avete lo stesso suono, sì, per me era... Questo però non l'avevo mai notato, sì. Italiano e polacco... Solo che noi abbiamo cinque vocali, voi avete... Però è facile per pronunciare, no? Per me è facile pronunciare italiano. Non ci ho mai provato, però la prossima volta faremo un corso di... Al momento non abbiamo potuto fare un corso di cucina polacca in diretta per gli ascoltatori di Radio Anno, possiamo sempre provare con un corso di polacco e testare la facilità del polacco. È talmente facile che io ho un amico che si chiama Radek, ma di cognome ha un cognome che inizia con la W e cinque consonanti attaccate, per cui quando devo cercarlo sulla mia lista di address, per fortuna è con la W che mi aiuta, se no... Senti, Maria, allora parliamo, com'è che sei arrivata in Italia senza conoscere italiano, senza sapere, insomma, com'è nata questa idea, questa esperienza italiana per te? Ma benissimo, anche Parma con sempre il sole, e dopo che mi piace andare in bici, il centro storico di Parma è chiuso per traffico, così io prima chiuso cosa che ho chiuso a traffico, prima cosa che ho fatto, ho comprato una bici e tutti vanno, però ho vissuto prima in Berlino, e in Berlino fai con questo uniforme, con un helmet, con un casco, no? Tutto equipage, sai, che retro reflective, e in Parma si va con, che io sono uscita con tutte queste cose là e tutti mi hanno guardato perché sono, sono le scarpe Coccinelle, dopo come Armani, alla moda, e la bici anche troppo... E finalmente, solo dopo un paio di mesi, hai sfoderato le tue scarpe Prada sulla Graziella. Una volta sono andata con un casco e dopo ho detto no, perché in Italia non si non va. Si porta. No. E non era anche pericoloso, no? Perché non c'è traffico. Sì. È così. Senti, Parma, hai deciso tu di andarci? Ti è capitata l'occasione, insomma? Sì, era un'offerta di lavorare qua al centro europeo, sono sicura che posso anche lavorare senza parlare italiano, però se vuoi fare qualcosa con un idraulico, che... se vuoi farlo con un idraulico... e lui non parla sicuramente inglese, così hai bisogno di imparare italiano. Non basta mica la direttiva, E diciamo, al di là dell'ambito lavorativo per il quale non avresti avuto bisogno di italiano, la volontà di integrarti nel tessuto sociale della città ti ha spinto a imparare italiano. Sì, che ho imparato italiano proprio veloce, perché tutti mi hanno parlato, tutti mi hanno parlato solo in italiano. Dopo, ma non detto, perché non sapeva l'inglese, perché volevano farti imparare ma velocemente. Ma tutte e due, mi sembra che... Che... Dai, ora questa storia che gli italiani non parlano l'inglese. Su. Ma ok, a Parma è una città piccola, forse i giovani sì che parlano, però la generazione più vecchia, vabbè, no. Senti, quando sei arrivata in Italia, con che idea dell'Italia? Oh, pensavo sempre, ho visto questi italiani che entrano in un museo e fanno troppo rumore, sempre tra, però dopo ho cambiato. Dove? In che città hai visto gli italiani che entravano in un museo? Questo già era... Napoli? No, che no, ci vai a Louvre, vai qui e dopo senti tutti gli italiani con il telefonino, no, tutto questo, però dopo un anno ho cambiato idea, proprio che sono aperte. Adesso lo fai anche te, no? Sì, non ho più la differenza. Non ho cambiato idea, ho cambiato io. Sì. No, vabbè, cioè, millenni e millenni di tradizioni e culture italiane, tu sei venuta con l'idea che eravamo quelli con i cellulari dentro al museo, dai. Sì, e anche che, però mi sembrava che il traffico, quando ho visto i film italiani, io pensavo che il traffico, che c'è tanto incidenti, no? Sulla strada, forse ci sono, però io tante volte ho noleggiato la macchina per fare un grande giro. Ci sono pochi, ma sono tutti gravi. Eh no, non era così pericoloso, no, io ho un patente polacco bravi. E vabbè, sono andata in Roma e ho riuscito di venire senza un buco. Ah, cioè tu pensavi... Da Parma? Sì, da Parma ho preso la macchina, sono andata alla costiera Amalfitana, ho fatto un giro più grande che penso che conosco meglio Italia che tu. Sicuro? Hai fatto il sud. Passo più ho fatto lungo il sud. Che la gamba. Mi falta solo Sicilia. Mi falta, questa è uscita un po' di spagnolo, è uscita delle parole. Ah, mi manca! Ma se ti falta. Fermiamoci qui, mettiamo un po' di musica e facciamo un breve flashback per Maria, un po' di italiano per lei, che in questo momento a quest'ora comincia a parlare spagnolo. Un po' di musica e poi ci ritroviamo, sempre a Noi Volevamo Savoir. Torniamo in studio per l'ultima parte di Noi Volevamo Savoir. Questa sera stiamo parlando abbiamo parlato della Polonia e dell'Italia con il nostro ospite. La nostra ospite è Maria, una ragazza polacca che ha vissuto per un anno a Parma, e abbiamo parlato un po' anche con il nostro ospite quasi polacco fisico, per caso. Polacco per caso, il nostro ospite Gino, che i nostri amici ricordano Gino da Taipana, questo paesino sconosciuto del esatto. Friuli. Che invece adesso è diventato gettonatissimo, tutti ci chiedono, tutti ci fermano. E... La frase finisce per al mondo. Al mondo. Senti, torniamo a noi, alla tua esperienza in Italia, a Parma. Hai detto ok, sei arrivata in Italia con l'idea degli italiani, il telefonino, il museo, insomma, sorvoliamo su questo che non ci è piaciuto molto, onestamente. Però dopo un anno a Parma, che idea ti sei fatta di noi italiani, degli italiani, delle italiane, non so. Degli idraulici. Idraulici italiani, ho anche provato gli idraulici. Hai provato gli idraulici italiani? Che non sono solo in Polonia, ci sono in Italia. Sono anche, belli pure quelli italiani. Sì, anche gli italiani sono belli. Però questa cosa che tutti in Polonia, che forse sono attracted, per dire, attirate, no? Che per le donne bionde, con gli uomini più scuri. Scuretti. Volevo chiederti, io, Maria, a te per cosa ti scambiavano in Italia? Perché non hai troppo le fisionomie. Ma per l'irlandese. Quindi, cosa vuoi dire? Nonostante non fossi bionda, come era il tuo rapporto con gli italiani in generale? Come ti hanno accettato? Ma no, per venire a Parma, come è andata? Ma ok, Parma è proprio piccola, no? Qui a Bruxelles puoi scegliere amici, perché scegliere. No, perché sì, adesso non lo so, oggi sera ho incontrato 5 persone, mi piace una solo, posso incontrare un'altra 5 persone domani e dopo scegliere. Però la Parma, invece a Parma hai dovuto scegliere subito. Sì, che chi hai scelto, Maria? Ho scelto amici, no? Ho fatto un po' in palestra e così ho incontrato persone italiane, perché nell'agenzia si lavora solo con tutti europei, che è la comunità europea, e dopo tutti ci parlano inglese, così non hai opportunità di parlare italiano là. Però quindi fuori dall'agenzia, voglio dire, hai conosciuto italiani? Sì, però non ho proprio veloci, dopo che la mia idea era dopo due, che polacchi sono più riservati. E come in Italia dopo polacche. 2 settimane ti amano, ti sposo. Hai ricevuto già le prime proposte di matrimonio dopo 2 settimane di permanenza. Sì. Ma erano volatili. È divertente, molto divertente. È differente in Polonia, però per questo forse si attirano, no? Perché sono differenti. Ma in Polonia c'è il mito dell'uomo italiano, del macho italiano? Sì. Però è lo stesso per gli spagnoli, gli italiani, sai, tutti del sud. E anche in Italia sud. C'è il mito della idraulica polacca. E tu, però questo fatto, gli italiani, io credo che i ragazzi italiani non è che siano contentissimi di questo, il fatto di accomunare ragazzi italiani e spagnoli, cioè per le polacche un ragazzo italiano, un ragazzo spagnolo è più o meno... Lo stesso. Cosa vuoi dire? Ma per noi tutti del sud, no? Polonia batte Italia 1-0 questa sera. E tu conosci degli spagnoli? Credi veramente siano molto simili italiani? Ma adesso no, perché però per persone che vivono tutta la vita a Polonia, che non conoscono greco, italiano e spagnolo, o portoghese. per i miei genitori, ad esempio, tutti sono come, ok, sono del sud Europa, no? Come per voi siamo noi, c'è chi polacchi, slovacchi, sloveni, che neanche qualche persona fanno differenza tra Slovenia e Slovacchia, no? Questo è... Gino, spezzo una lancia in favore dell'uomo italiano, vedo, e no, della sua cultura geografica. Io sono già partito. Hai già rinunciato, non c'è... Ho messo la voce. Però no, adesso vedo anche differenze tra cucina italiana e spagnola, come la lingua, sì, che adesso sento proprio questo italiano, questo portoghese, però prima è un gran mélange, no? No, però forse Maria, non abbiamo, noi siamo arrivati alla fine della trasmissione. Cara Maria, la nostra trasmissione si conclude sempre con l'ospite che dice: ah, però il mio paese preferito è l'Italia. Qua adesso stiamo dubitando di quello che tu vuoi dire. Abbiamo ancora 3-4 minuti di trasmissione e tu stai cominciando a parlare. Noi dobbiamo riuscire a farti dire che dobbiamo hai riuscire adorato a convincerti con artifici e raggiri. Ma sì, che torno in Italia, torno. Ma hai una motivazione forte per tornare? Sì, sì. Perché il mio contratto ce qui è come un anno in più e dopo voglio tornare. Forse anche a lavorare a Parma perché ho lasciato tanti amici là. Ma vediamo se riescono. Senti, torniamo all'Italia e al giro in macchina che ci hai detto hai fatto. No. Cosa hai scoperto dell'Italia? Quindi dove hai girato? Madonna, che ho fatto tutto, proprio tutto, dell'est e oeste, che sono andata in Liguria, Cinque Terre, dopo Lucca, Pisa, Roma, sei Orvieto, anche Puglia, ho fatto Assisi, dove ho fatto un grande incidente. Proprio Assisi? Sì. Ma anche Venezia, che è proprio tutto. Hai fatto un incidente in macchina da Assisi? Sì, sì, sì. Cioè, giusto quando stavi... Però mi hanno aiutato tanto. Sì? Sì, sì, sì. Si sono fermati questi Giro d'Italia, questi tutti in bici, sì. E mi hanno portato perché sono andata con la macchina a un grande buco di un metro con una... Gomma? Sì, una gomma. Cioè, era durante il Giro d'Italia, non ho capito. No, no, loro hanno fatto Giro d'Italia, io ho fatto anche il mio Giro d'Italia. Quindi... E sono andato con una ruota, sì, un grande buco che non ho visto. E dopo cominciavo a gridare help me, help. E dopo loro si sono fermati. Non sapevi ancora italiano all'epoca? No, non lo sapevo. Non lo sapevo. E nonostante questo, vedi, loro si sono fermati anche e quando ho gridato help. È una buona ragione per ritornare in Italia. Gli uomini italiani, gentili uomini, hanno visto la ragazza. No, qua, ci sono tanti che l'architettura, cucina, la lingua, tutto mi piace. E quanto, sì. Quanto giù, quanto a sud sei andato alla scoperta d'Italia? Perché qua abbiamo Gino che non conosce nulla al di sotto di Roma. No, no. Tu hai... Nel corso dell'ultima puntata, cioè le registrazioni, mi ero ricordato di essere arrivato fino a Bari. Oh. Incredibile. Tu invece fino a dove ti sei spinta, Maria? Era Costiera Amalfitana, Salerno. Ah, sì, ecco. Sì. Napoli, l'hai vista? Dopo Napoli, Vesuvio, sono andata proprio giù in Vesuvio a vedere in Napoli, dove ho mangiato più buona pizza. Ah, qua c'è stata... Aspetta, più c'è stato un sabotaggio. Proprio il momento in cui stava per dire che a Napoli hai mangiato, ripetiamolo... Mangiato più buona pizza del mondo. No, dalla regia un sabotatore. Impedire che si dicesse. Il solito piemontese. No, perché mi prendo sempre io perché io costringo. Alla fine sono riuscita almeno a costringere Maria a dire che la pizza di Napoli è la più buona del mondo. Sono soddisfattissima di questa trasmissione. Direi di fermarci qui perché temo che Maria possa continuare ad andare avanti sulla storia dei portoghesi, spagnoli, eccetera, eccetera. Potrebbe essere rischioso per noi stasera, Gino. Esatto. Tutto sommato adesso abbiamo finito con un pareggio, mentre la situazione si era complicata parecchio. Esattamente, dopo. In salita. E allora, ci fermiamo qui questa sera. Abbiamo parlato della Polonia, abbiamo parlato dell'Italia con Maria e abbiamo parlato anche tanto dell'Italia grazie al nostro ospite italiano Gino. Mi raccomando, tornaci a trovare quando vuoi, quando puoi, ci fa sempre piacere averti qui a Noi Volevamo Savoir. Maria, grazie mille per essere stata con noi. Speriamo che da domani l'ufficio turistico di Poznan sia preso d'assalto dai radioascoltatori. Noi vi diamo appuntamento allora lunedì prossimo, come sempre, come tutti i lunedì, con Noi Volevamo Savoir su Radio Alma 101.9 FM. A lunedì prossimo.